tuoi capelli erano tramonti in un cortile, e la tua voce un inno alla vita. Pensavi davvero di farla finita, tu come una pagina strappata ad un giornale. Che cosa dimmi almeno ora pensavi di fare di quelle cose, dinne almeno una. Aprivi le porte e c'era la luna, ma tu amavi il mare come me. Dicevi basta ora, ma poi ricominciavi. Le barche ti piacevano, sapevi remare. Di quelle onde ne ricordo una. Scendeva la notte, saliva la schiuma. E tu ridevi forte allora, avevi nel respiro parole che tremavano, mi prendevi in giro. Eri una stella che brillava appena, però ti piaceva uscire di scena. Ma tu amavi il mare come me, e io odio la morte come te. Fretta in fondo, non sapevo il rimpianto. Eri una roccia, la schiuma saliva, però in quella sabbia lenta ti copriva.